controllando l'antenna. E perché cosa c'aveva? No, no, un'antenna. Sto revisionando la moto da 5. Quella lì solitamente c'ha il difetto, la piastra dove si collega il cavo, è il cavo centrale, devi controllare quel cavo centrale che c'è. No, conduce bene, conduce, bisogna rivedervi il basamento del radiale, ma glielo sto saldando in alluminio con la bacchetta, capito? Ah, sì, il basamento del radiale, quello lì è quello che si prende ruggine, anche dove si attacca anche il PL, lì prende ruggine. Io l'ho avuta la moto fa 5, quindi la conosco bene. Ti dirò che l'avevo revisionata dopo 12 anni, l'avevo tutta revisionata e stavo andando avanti, solo che le cornacchie mi hanno rotto i radiali. Che avevo fatto già una volta, avevo messo dei bulloni passanti per non rompersi e avevo messo anche quei radiali ripieni proprio in alluminio. Beh, ma hanno rotto anche qui. Però bisogna vedere, perché lo sai cosa è già? Il radiale in alluminio, dipende da che com'è, non conduce esternamente, capito? Se tu appoggi il tester nel pin, cioè nella parte dove c'è il radiale, dove aggancia il radiale, e poi controlli il radiale, non conduce. E tanti radiali servono solo per fare massa, capito? Non è che servono per altro. E, diciamo, la ricezione, guarda, io anche senza radiali c'è pure uno di stazionare, non ti dico altro, senza radiali. Sì, alla fine se presentare bene la spirale non hai bisogno di radiale. Sì, per dire, ci sono delle antenne adesso che sono senza radiali, completamente. Sono fatte in modo diverso, praticamente c'è una carica, la carica iniziale, poi un cavo che li passa all'interno, è come quella che ho avuto io che mi ha rotto il vetro, ma l'ha spezzata in due. Sì, no, adesso questa qua provo a revisionarla, ci metterò un bel po', però ho già fatto una striscia con la bacchetta. Capo, ma i radiali sono buoni, sono quelli vetroresi? Sì, sono i radiali vetroresi, no? Quelli lì, siccome si vetrifica la vetroresina, dovresti passare un trasparente sopra. Sì, sì, no, resina liquida ci vuole, data a spruzzo, per cui diventano nuovi nuovi. E anche quello, vabbè, una resina liquida, prima lo gratti un pochettino e poi ci metti la resina liquida, vabbè. E provo a recuperarla, perché è un peccato. Beh, se conduce, se va bene, se non si è rotto il filo interno, solitamente hanno quel difetto, ma più che la moto da 5 era la moto va turbo che si rifaceva quel difetto lì, quello del cavo interno, si spezzava il cavo. No, questa qua prima di mettere la mano, guardate, conduce tutto. Vale, vale la pena, vabbè, l'antenna ce l'hai già, ma almeno tenerla di riserva, capito? No, me la tengo per così, per averla. Magari la piace, la usi come seconda antenna. No, mi devo buscare un baracchino, guardate che funziona, mi interessa, anche due canali, tre canali, mi interessa, per tararla. Mi capisci? Oggi silenzio radio tutti. Cosa? Ho detto oggi silenzio radio tutti. Ma io ti dico la verità, a me me l'ha fatta un po' il sonno, mi sto guardando il televisore e mi sono abbacchiato proprio. Me l'ha fatta il sonno perché non ho dormito tutta la notte, era dolori e non ce la facevo a dormire, quindi ero anche stanco. No, io mi sono col garage, faccio la sabato e la domenica che sto a fare i miei vizziti, quale fili, cose, dell'impianto, del coso, dell'audio. Oggi mi sto revisionando questa antenna, però. Vabbè, ma i pezzi sono nuovi, sono messi bene, dai, i pezzi dell'antenna. Sì, già, sono messi bene, bene, addirittura io questa prima parte dove c'è, diciamo, la spirale l'ho tutta lucidata, pasta abrasiva, l'ho tutta guardata bella, fatta fare uno specchio. Sì, io solitamente la lucidavo CRC e lana d'acciaio, così la lucidavo. Io gli ho passato il sidol sotto, lucidata bene, la sidol è diventata un po' nera, poi la pasta abrasiva è diventata uno specchio. E mi vabbè, ci sono tanti metri per farla diventare lucida, ma comunque io quando l'avevo ripiazzata sembrava nuova, si vedeva da lontano, brillava, si vedeva da lontano proprio quando scendevo in macchina, l'avevo da lontano brillare proprio. Sì, vabbè, quando fa la valutazione poi la vedi e poi mi sembra così, ma cambia, non sai quanto cambia. E io le avevo cambiato anche il scavo, le avevo... che conduce, capito? Sì, vabbè, ma io una volta che l'ho scesa dopo 12 anni, capito, l'ho aperta perché ne abbiamo rifatto il pezzo di sotto, quello dove si attacca il PL, l'ha fatto un amico mio col torneo, l'ha fatto uguale, identico, e poi l'abbiamo attaccato la piastra del PL, e visto che stava cambiando quello, ha tolto tutto il filo e l'abbiamo messo nuovo. Sì, perché in pratica il filo va dal PL al primo dado da caccia alla spirale, così. Perché poi c'è l'avvolgimento, poi c'è la spirale, il rame è quella dove c'è quel nastro vulcanizzante. Quello lì, quando se tu la dovessi piazzare, vulcanizzala bene, quello lì è il segreto, vulcanizzarla bene, perché una volta vabbè che la piazzi, noi le abbiamo messo tutte le fascette in acciaio, rifatte tutte le fascette, tutte in acciaio le abbiamo messe. E io adesso la mia la devo scendere di nuovo e vulcanizzare, perché non l'ho vulcanizzata, capito? Non gli ho messo un altro, l'ho montata così, infatti quando sono libero settimana un pomeriggio me la scendo oppure la abbasso, vedo sul tetto e gli faccio il giro di nastro. Ma come ha piovuto vai per dare allora? La smonto, la soffio, la con, la forzo e la do a piazzare, non è quello il problema. Soffiarla non è quello il problema. E appunto, tu avresti avuto fretta per provarla, io ho capito. Avevi la frenesia di rientrare. Che dove ci sono le viti? Una bella vulcanizzata, poi messo un giro di nastro sopra di modo che stringa bene il vulcanizzante. Poi una volta che, vabbè, col tempo il nastro deve uscire fuori, ma il vulcanizzante rimane bello attaccato, capito? Sì, sì, ma adesso la scendo, e tanto guarda, questa qua è tutta in acciaio, e non dovrebbe fare niente, però per precauzione glielo metto. E nelle aggiunzioni almeno, dove ci sono le aggiunture, lì va messo, e dove c'è il PL, che attacca il PL, non lo so se è libero il PL in quell'antenna. Sì, è libero il PL, è libero, ma dalla casa non danno nessuna protezione, capito? Quindi non dovrebbe fare nulla. Vabbè, capi, se cedi non è mai troppo, brutto è quando non metti la roba che serve, magari poi si arrugginisce. Meglio eccedere e fare le cose come si deve. Io guarda, non mi sono mai pentito di aver messo 9 tiranti nell'antenna, non me l'ha mai buttata giù in 12 anni, capito? Ne ho messo 9 e tutti dicono sono troppi 9, ma io sono lì ti non me li vento, dove sono grossi a mare io, capito? E c'è poco da fare, tu ancora più vicino, a me praticamente da casa mia si vedono le barche e tutto quanto si vede, tutto la zona del mare è tutta libera la mia. Io gli ho messo 9 metri di traliccio all'antenna mia, traliccio in alluminio 30x30, triangolare, 9 metri, e l'antenna sopra. Come ci ha messo il traliccio invece che il tubo? Perché io ho una struttura audio, capito? E c'ho un ring in tutto il traliccio da 30x30, però ce l'ho quadro, questo qua è triangolare, non lo usavo, avevo 3 pezzi da 3 metri, li ho aggiunti, li ho messo le sicurezze che ci vanno, ed è una bomba. E ci puoi mettere anche la direttiva? Solo direttiva ci puoi mettere. Ma parte da terra, da terra oppure l'hai messa sul tetto? No, l'ho messo sul tetto, non ho rispettato i 4 metri di... diciamo di specchio che deve avere, però vedo che sta andando bene lo stesso. E basamento come l'hai fatto? Cemento già. Allora già va bene. Ma tu te fa tegole oppure a terrazzo? No, terrazzo, c'è un basamento 2 metri per 2 metri, alto 10 centimetri, 3 perni al centro, che entrano 50 centimetri dentro il traliccio. Va bene, di lusso, mezzo Rai, meglio di così non si può fare, quindi ci puoi mettere anche la seconda antenna lì. Ma quindi ci posso salire anche io sopra. Lo so, ma come ti ho fatto un sistema per salire? O lo devi abbassare ogni volta? No, è traliccio, è proprio traliccio, puoi salire, è fatto tipo scala, capito? Solo traliccio. Ma ho capito. Perché ci sono diversi sistemi per abbassarlo, capito? Ci sono sistemi a carrucola che fanno, specie radioamatori, quando c'erano le antenne grosse hanno dei sistemi a carrucola che li abbassano. Ma noi non siamo radioamatori. Noi ci arrangiamo con quello che abbiamo. Ma infatti no, ma va bene lo stesso, capì? Cazzo. Anzi, ce n'è più che per i porci, per un'antenna del 27 che è leggera, il traliccio già è tanto. Sì, adesso forse martedì o mercoledì, come smette di piovere, la scendo e gli metto vulcanizzante nelle giunture, gli faccio un lavoro dove c'è il PL, dove ho finito, la rimetto su. Infatti. Vabbè, dai, è stato per provarla adesso. E poi magari l'antenna, l'altra antenna, se la vuoi usare come seconda antenna, oppure fai delle comparazioni, quale va meglio, capito? Esatto, volevo vedere proprio quello, però devo, ti ripeto, devo trovare un baracchino anche, non so, a spendere 20-30 euro, l'importante è che esca con i watt, perché me la taro con un baracchino, capito? Kappa. Vabbè, già lo trovi, guarda chi ne ce lo trovi, guarda su internet, ce ne sono sempre in vendita. Tonino glielo ha chiesto, ne ha diversi lui. Sì, ma sono sprecati per quello che devo fare io, a me mi serve uno di quelli, un Intec di quelli vecchi, giusto che abbia un mic, che esca e buoni. Ma io non ne ho, se no te l'avrei dato. Te l'avrei dato per provare, ma non ne ho. Io tutti quelli piccolini li avevo tutti venduti e visto cosa ho fatto stazione base e apparecchi che valgono, che vanno molto bene, dai. Sì, infatti, ma anch'io me ne tengo una, questa qua va bene, però mi serve uno per fare questa prova qua. No, ma me lo prendo, adesso dopo guardo su subito e se c'è valore non lo prendo. Guarda, Roberto Quadrato ne aveva comprato uno al mercatino che fanno in Piazza d'Italia, 20 euro l'ha pagato ed è funzionante, l'ha pagato 20 euro. L'unica cosa che gli mancava era il cavo di dietro, che era lo stesso attacco del Midland, quindi già messo quello del Midland e va benissimo. Ma lo apri, guardi dove è il positivo e il negativo, lo colleghi, non è che ci voglia chissà cosa, mi serve una cosa a prendere per, diciamo, per tester. E come prova? Sì, però vabbè, per pararla, se la pari con un baracchino di 4 watt ti dà un valore, se la pari con un baracchino di 20 watt te ne dà un altro, perché più watt c'hai più le stazionali, lo sai benissimo che salgono, quindi bisogna sempre vedere, dai. Comunque già è una buona cosa, perché con quello lì non lo puoi tarare, scusi. No, fai qualche errore con questo, qui c'è un casino. No, io la devo tarare con 5 watt, tu come nasci lì? Ho capito, io non ne ho, Gavi, se no te l'avrei prestato. No, ma me lo prendo. Uia, una paranoia. Cosa? Ho detto che con questo tempo è una paranoia. Sì. E stamattina avevo portato giù il cane che stava aspettando. Stava piovendo, ma piovendo però qua, non so lì da te se stava piovendo, ma qua stava proprio piovendo come Dio la manda. E abbiamo dovuto aspettare, magari il cane si stava lamentando perché voleva scendere, poverino, però abbiamo dovuto aspettare che smettesse un po'. Che qua stava piovendo, no, vabbè, qua in campagna di mollo fanno quello che vogliono fare, non ho problemi per quello che capito. Lì sono liberi, c'è poco da fare, lì quando ne hanno voglia vanno e la fanno, però il mio è in casa e quindi bisogna portarlo a quell'oraio lì, no? Noi lo portiamo sempre molto rigorosamente, ma quando piove così a dirotto come fai? No, è un casino, quando sono in palazzo è un casino per quello, per quel motivo. Comunque stamattina mi stava arrivando forte, dopo pranzo già. forza. Vabbè. Facci siete attaccati. Ma a me è Eugenio, Eugenio. A me è Eugenio. Buonasera, buonasera. È attaccato, io non so che è attaccato di nulla, sto facendo con il fatto dell'apparato. Nulla, John. Lo facevo 50, 60. No, ma stai scherzando. Come va a pesce il Galaxy? Tu esci con 60, cazzo. Tu già esci sopra come se fosse attaccato. Non parli, no. Ciao Eugenio. Poi ci siamo capito nel comune, allora. Com'è, com'è? Oioioioia. Ben faccio, ben faccio. Ben faccio, dici. Vabbè, domani ha messo buono, poi da martedì di nuovo tempo brutto. Oh yeah. Vabbè ragazzi, un attimo che sto finendo la targa un amico, vai, un attimo. Eia. Ma mestrale non è mai a porto posto, vero? Sì, è mestrale. È mestrale già. E vabbè, c'ho goduto tu casa, roba gruda. Eia. Ma che... come viene a mestrale, infatti? Mestrale. Pure c'ho goduto tu casa. Cappa. Vabbè, e ti devo obbligare su chi è, già capì, eravamo fino a poco tempo, pochi giorni fa, eravamo in maglietta maniche corte, ieri per la prima volta abbiamo messo il giubbotto per uscire. Io stamattina qua stavo facendo la maglietta maniche corte perché non c'è freddo, non c'è freddo, è solo dalla pioggia fastidiosa, ma non c'è freddo. No, freddo non c'è, noi siamo anche fortunati. Sembra che Italia grandi, la neve, di tutti di più. Te li fa danno, te li fa danno. Noi siamo scarognati, diciamo, per il settore del lavoro, però riguardo al meteo abbiamo, siamo fortunatissimi, faccia bene. Certo, vabbè, adesso col turismo quest'anno si è ripreso un po', Sì, a Puglia si è ripreso. Se domani vado da Cusano mi prendo questi pin per vedere com'è. E intanto già non costano molto. Dobbiamo fare Gavi quello che ti ho detto, portati appresso quello strumentino e li pruvi. Perché una serie è arrivata a tutti i luci che non ha vita. Allora io penso che ho fatto 6 espressioni per tenermeli pronti in caso dovessi cambiare le cose. Ho preso 12 piedi, tutti i carti di rifiutosi, non ha vita. Adesso li devo tutti smontare e un amico mi dà le ghiere. Devo cambiare le ghiere, dai. Devo sostituire le ghiere perché se no tocca risaldare tutti, ma una parte la devo sempre risaldare per svitare la ghiera dell'altra. Sì. Io me ne ho fatto uno spettone di 90 cm, però con cavo grosso e diciamo i pin grandi. Adesso vediamo domani quali ha, sicuramente li prendo quelli buoni. Io ricordinarli da internet, te ne prendi una trentina, sono mi pare una busta, magari te li dividi con qualcuno, c'hanno gli Amphenol che sono molto buoni, come pietre, costano ma sono buoni. Già, io comprare da internet preferisco spendere un euro in più, li compro in un posto locale, la verità è, io sono fatto così, perché poi guardi spedizione e tutto e ti viene quanto comprarli qua. E non è così, no Gavi, io mi sono fatto dei conti, io prendo il mangime per i pappagalli, e costa, quello da 3 kg costa su internet, mi viene 40 euro con le spese di spedizione, qua volevano 50 euro. E io lo prendo le crocchette per i cani, sono 20 kg, 20 euro, le prendo qua e sono buone, perché io guardo il coso delle ceneri che hanno, capito? 20 kg, 22 euro, non 20 euro, 22 euro. E io le prendo le trainer, costano 50 euro di lì. No. Vedi, mangiano i crocchetti, si rimangono i magnà e mangiano anche, mangiano soprattutto roba che mangiamo noi. Perché se le abito a premier questi qua, guai. Io gliele mischio con la roba da mangiare, gli metto pasta senza sale, carne e crocchette. Le crocchette al pesce, perché il pesce non glielo do e quindi glielo prendo al pesce. No, loro mangiano tutto e una volta alla settimana gli do la pasta, gli faccio la pasta in bianco, cioè la pasta la mangiano un giorno sì, un giorno no, un giorno no. E una volta, due volte alla settimana gli do la pasta con l'uovo. Scappa. Vabbè, io il mio è abituato diversamente, se non va a garre non mangio. È abituato male, E io l'ho viziato, dico la verità, l'ho viziato io, però c'ha dei muscoli, è bello muscoloso, capito? Me lo posso immaginare, però la busciacca è già. Ma io ridò anche, diciamo, reni, capito? Il rene che costa 3,50 al chilo lì al centro carni, glielo compro, ritolgo tutto il grasso e gli do il rene, mangia il rene, mangia i granelli di bue, sì, gli do anche fettina, la verità, non posso negare. Il rene non si dà ai cani, già lo sai. Perché non si dà? Perché ha tutte le ceneri, tutti, diciamo, le spurie che mangia l'animale che viene ammazzato, il rene non lo smaltisce. A me l'ha sempre mangiato e non gli ha mai fatto male. Lo so, però non si dà, ma l'altro veterinario mangia. C'è un filtro, ci sono tutte le impurità. E che carne gli dai allora? Io gli do anche carne di cavallo, gli do qualche cosa di maiale, però lui ne mangia un bel. La carne di cavallo me la mangio io già. Insomma, questo qui è delicato, capito? Secondo cosa gli dai, subito a diarrea. Lo so, aspetta un attimo, devo fare una cosa. Soglia, non esco più a questo lavoro, oh, mamma mia. Cosa stai facendo? C'è presente gli autisti, non so se li hai mai visti, che hanno i nomi tutti illuminati davanti, quelle placche illuminate, quelle targhe illuminate. Sì, Luigi, sì, che li ho visti, a voglia, nei cani. Ho fatto tante io agli autisti, io faccio quelle cose lì. Non sto facendo un'altra adesso, me l'hanno chiesto. Metto anche il nome, oppure il nominativo, mettono la scritta CB per dire Corsaro, eccetera, eccetera. Sì, sì, quello che vuoi ti scrivo e lo nominiamo. Adesso ne sto finendo una. Ma su resina, come li fai? Su resina o sulla mela? No, la resina mica passa la luce, no, su plessiglass. Ah, ho capito. C'hai, diciamo, hai le attrezzature per farlo? Sì, non è ci voglia so quale attrezzatura. Una sega circolare per tagliare le cornici che ci vanno. E basta. Ma poi risulta luminosa oggi, una volta finita. Ehi, adesso te la mando. Il telefonino a portata di mano? No, è in carica. Non hai spento? Ehi, mandala già, poi già me la guardo. Eugenio. Sì, dimmi. Ma dove controllo la terra, com'è? Cosa? Guarda un po', ehi. Dai, stiamo un po' andando, adesso. Ok. Hai visto come segnale? Sì, pieno. Guarda adesso un po', a vedere com'è. Adesso dovrebbe essere un pochino, cioè radio e segnale. La radio è rimasta uguale, bella, perfetta. Il segnale è stato 9,5. Positivo allora, dai. Oh già, non c'è il tuo numero. Guarda che sicuramente ce l'hai su Messenger, forse. Mi ricordo che eravamo su Messenger, io c'avevo il tuo su Messenger. Sì, aspetta. Oh Gavi, ma ricordati di non usare le altre frequenze di quella roba. No, mi aspetta. Cappa, perché sennò è quasi tutto. Ma ascolta, non fai là? No. Io ho acceso, ho messo subito qua, ho detto, senta, no, è cosa mi interessa, non me ne interessa niente, tanto cosa volevo ascoltare. Io volevo prendere uno per fare ascolto, la 140, se lo trovo, con le MC60, come ce l'ho Eugenio? C'è subito un 140 in vendita. Ma adesso più in là lo prendo. Adesso non voglio prenderlo perché c'è altre spese, quindi no, meglio di no. Però non voglio prendere più in là. Che là lo prendo, perché mi interessa. Lo volevo prendere prima di riprendermi il Galaxy. E poi invece mi ha preso il Galaxy, vabbè, lasciamo perdere. E allora ho deciso di prendere il Galaxy e ciccia, perché questo il Galaxy mi è sempre piaciuto a me. Lo so già, però vedo. guarda, cioè ti prendo una cosa del genere anche per la 26, cioè per la 27, e va bene, esci tranquillo, tranquillo, e non hai problemi di nulla. Adesso io sto facendo con il VAT a zero, adesso sto facendo solo il radio, con il VAT a zero, con il VAT a zero sono già. Esce bene, esce. Però bisogna sempre conoscere la persona da cui lo prendi, capito? Perché magari te lo danno con difetti, devi mettersi sul di sopra, allora non va più bene. Meglio prenderlo da una persona che tu conosci, che l'ha trattato bene, che sai che è in frequenza, che non è fuori frequenza, che non c'ha difetti, capito? Cioè io la verità questo qua l'ho preso occhi chiusi, cioè senza provarlo, senza niente. Anche perché io ho fatto scambio una cosa per questo apparecchio, apparecchio alimentatore, capito? Quindi ho fatto lo scambio, non è che sono stato lì a controllare, mi ha dato provalo, se va bene va bene, se non ti rivolgo mi ha dato, capito? Però è una persona in gamba e ciccia. Se uno che ti puoi fidare, già va bene, ma l'apparecchio io vedo che va molto bene, capito? Non è che si capisce subito se l'apparecchio non va bene, se fuori frequenza si capisce subito. Ah, va benissimo adesso questo qua. Anzi, pensavo che quell'apparecchio non andassero bene per la 27, capito? Invece va bene. No, fa 0,30 fa questo qua già. Questo qua fa 0,30. L'unica cosa è che mi ho dovuto fare il cavo dell'antenna perfetto, capito? Io di stazionario solo di radio, così o non si muove la lancetta, sì. K, già va bene, quando si fa bene la roba. Sì, ti ripeto, l'unica cosa che non ho fatto, non ho messo il vulcanizzante tra uno stilo e l'altro, però adesso l'ascendo lo faccio. Adesso l'ascendo lo faccio, non adesso, però lo faccio. Domani magari ti avrà dato tempo buono, domani mi do una mossa al lavoro, arrivo prima e lo faccio. K. Infatti capi, ti conviene, perché una volta che poi lo sistemi si passa tutto l'inverno tranquillamente, se sa che abbi problemi di entri acqua, roba del genere. K. Va bene, va bene così. Avanti Eugenio. E chi è? A me che te l'ho spedito lì già. E poi vado a controllare, lo guardo. Ma comunque già ho capito quali sono, comunque voglio vedere come le fai, dai, sono curioso. E niente, riprendi oggi, riprendi. Ma è tutto a mano, Io non ho il pantografo, le faccio tutto a mano. Quindi hai anche una bella grafia. Guarda, diciamo che si scrive abbastanza bene. Me lo dicono tutti, con una bella grafia. Come quelli che fanno i tatuaggi, lo fanno a mano libera, a me mi hanno scritto il nome del cane, me l'hanno scritto a mano e l'hanno fatto un bel bene, tutto ben gigillato, tutto bellino, fatto bene bene, proprio perfetto. Sì. E te l'avranno fatto con i caratteri old school, quelli vecchi, belli, tutti con i fronzoli. Esatto, l'hanno fatto così, perché io ho tatuato Tyson nel braccio e c'ho la scritta sopra con la scritta Tyson. Già ho capito quali sono. Poi ne ho fatto un altro, l'ho fatto da mano alla Porto Torres e ho fatto un delfino, perché a me i delfini mi fanno impazzire, mi piacciono tantissimo. Tutti i giorni al porto li vediamo. L'altro giorno erano quasi viva la marinella, i delfini, c'erano tre. Ah, vero? Magari ho sbagliato rotta. Ogni mattina accompagniamo la Tirrenia. Sono a tua della Tirrenia, ogni mattina li vediamo. E poi Ginnanna. Però l'altra sera c'erano tre alla marinella. Cappa. Una volta lì, alla Reda, c'erano gomoni dei sommozzatori, dei vigili del fuoco, cioè è successo, anche lui l'ha negato. E invece tu, ho guardato, mi sono fermato col furgone, c'era un delfino, stavano cercando di farlo andare a largo, si stavano quasi arenando. Oh già. Avanti. Buonasera, che Eugenio. L'altro amico non l'ho copiato, chi è? Ascolta, chi è quell'amico che stava cercando un baracchino 40 canali? Gavino di Porto Torres, avanti Gavino. Buonasera. Buonasera Gavino. c'è un maniato a Sassa. E c'è un Zodiac, se interessa, un Zodiac con la camera ecco e l'MVP4. Se ti interessa. No, a me mi interessa una cosa da battaglia per fare delle prove, capito? Non devo andare in trasmissione con quello. Vabbè, allora vabbè, no, perché io ce l'ho buttato da una parte. E c'è anche la camera ecco, e quello dell'MVP4, capito? Perché ti interessava qualcuno, qualcuno lo lavo, tutto. Vabbè, se ti interessa una cosa da niente, va bene, dai. No, mi serve una cosa per fare delle prove, basta, capito? Mi serve una cosa per fare delle prove, basta, uno di quelli vecchi, dai. Non lo voglio al regalo, lo pago, però non mi serve una cosa per trasmettere. D'accordo, come non detto. Va bene, già, riprendi, scusate. Ehi, Giovanni, come mai stai scendo così basso di radio? Due fatti, cosa vuoi? Due fatti, come due fatti? No, perché sono abituato a sentirti bello pompante. Oggi va bene, adesso c'è qualche altro apparato. Infatti, sì. No, sono quell'antenino piccolino, Ah, va bene, dai. Se vuoi rimanere, ormai siamo qua. Va bene, dai, proseguite pure, dai, non so, mi stavo ascoltando e ho voluto dire se era interessato, tutto lì. Ok, d'accordo, già, sentiamo là. Buon proseguimento tutti a tre. Ciao Gio Maria, ci sentiamo, avanti. Ciao Gio Maria, ci sentiamo. No, vabbè, no, a regalo non voglio nulla, cioè, già, non interessa, ti ripeto, per fare le prove. Lo pago, ma non lo posso pagare un baracchino per fare le prove, non posso pagare 100 euro. Vabbè, magari ce ne sono. Ti ripeto, Roberto Quadrato ce l'ha uno, l'ha preso 20 euro da... Se però va, non lo so, ma detto che l'ha pagato 20 euro al mercatino che fanno in Piazza d'Italia. E funziona, è funzionato. Oh, ragazzi, a Porto Torre c'è uno che vende questi baracchini e baracchini, Ora il sito non me lo ricordo, però ha un sacco di roba. Modulata su 12 tantissimi anni fa. Vabbè, comunque sono qua e sto facendo cosa, sto prendendo le ultime cose qui, un attimo. Ma roba vecchia, c'è roba già adattata. Sicuramente è roba vecchia. La roba vecchia. Niente. Lo sai che cosa mi piacerebbe a me già? Un bel Saturn, ecco. Tanto quanto è bello. Quando ho possibilità ve lo prendo. Quello se lo trovo a posto me lo prendo. Qua a Torino ce l'ha il Saturnecco, chiedilo a lui, lo stava vendendo. Già me l'ha detto. Non lo voglio prendere perché lo voglio spedire a farlo tamarlo, capito? Bello è, bello. Ti spedire? Lo mandi a cosa? A Borole, c'è uno che li fa benissimo, l'ha fatto anche a Gigi Vulcano, come vuoi tu, tipo camionista, con le coccolte, eccetera, eccetera. Sì. Quello a me Saturnecco così è assurdo, ma una radio, Saturnecco ha una radio allucinante. Questo è il Saturnecco, questo che sto usando io. Esatto. Quello lì, se gli azzecchi il microfono è una bomba. Lo so, io ho anche il Turner, però sai cosa succede? Che il Turner fischia col Saturn, l'ha fatto già altra gente pure. Fischia, non so il perché e il per come, me lo devo mettere sulle gambe, una volta che lo metti sulle gambe non fischia più, però non posso usare sempre quello microfono in attallanchi. E allora mi sono preso questo qua che è buono come microfono, ho letto diverse opinioni di tanti cibi, hanno scritto praticamente le recensioni. Ti sei perso? Mi sono perso e ho schiacciato male. Cazzo, questo microfono se non lo schiacci da sotto non esce di radio. Io ho abituato all'altro che c'ha il PTT ce l'ha sopra, e quindi schiaccio sopra, però a volte se lo schiacci bene non esce sopra, invece schiacciandolo da sotto così va bene. Se sapete me com'è bello se gli abbini un microfono, uno Shure, un SM58 con un mixer, si fa la portante a parte, entri nel mixer con la mandata della capsula ed esci, e gli dai, gli fai, così fai quello che vuoi, con un SM58. Il Saturn Echo esce bene anche col, come si chiama, l'Echo Master Plus. Non lo conosco quel microfono. Comunque, sì, quando capita me lo prenderò, quando posso me lo prendo, adesso non sto cercando altro. L'unica cosa che ho detto per la fine. Già roba pompare ci vuole, capito? Roba pompare. 2 kW, 3 kW. Esagerato, il Sadelta, il Master Plus, il Sadelta, non lo conosci, quello che c'ha il gambo pienevole. Ah, quello che aveva pompugno. Sì, ce l'aveva anche lui. E che fine ha fatto Antonio? Boh. Io, si sta proprio magnetizzando questa vicenda. Comunque io vedo tante antenne, tante cose, diciamo che... Mia. Antoni. E allora, buonasera a me. Buonasera a te. E allora, vado ad entrare, Drummendi. No, ero fuori a fare un giro, capito. E quindi, da parenti, amici, ristretti. Ho capito, dai. Noi ti abbiamo aspettato, alle 6:30 la sei entrata. E sono entrato adesso. Sto scherzando, l'ho fatto anche a me il sonno. Sono entrato un po' più tardi, dai. Eia, chi c'è qua? Ci siamo io, Gavino, e Eugenio da Porto Torres. Ciao Gavino, ciao Gianni di nuovo, e ciao Eugenio. Ciao tu, allora. Niente, c'è freddo fuori. Rimanevo già la cappotto, avevo. Vabbè, tempo suo, E allora già, cosa mi ci lamenti? Chiamo tuo genio, forse non mi senti a me. Io ti ci lamento, te l'ho detto, sono stato stanotte senza dormire, mi sono riposato dopo pranzo un po', dai. Anzi, devo telefonare a Stefano perché ho telefonato stamattina, mi ha richiamato e ci avevo silenzioso, quindi non ho sentito. E dovevo richiamarlo, poi avevo gente a pranzo, un casino, quindi non l'ho chiamato. Vabbè, domani se trovo tempo lo chiamo. No, ti piace per Eugenio, perché io forse a me non mi copio. Eugenio lo copi a Tonino, non copiamo a come. No, vuol dire non c'è. Gavi, riprendi. Eugenio sta facendo cosa? Comunque tu con quell'antenna, per avere quell'antenna arrivi, Per avere quell'antenna lì, in quel punto lì arrivi. E anche bene, da me. Ah, chi è questo Joker? Sì, Gavino Joker. Hai capito, bello bello. Buonasera. Buonasera a lei. Chi è? Ti lascio un punto di domanda. Poi magari ci pensi. Oh, sparvi. No. E chi sei? Boh, non lo so. Vabbè, non fate nomi voi. Ciao Tonino, ciao Gianni. Ciao, Milovi, Mimose. Lascia perdere. Gavino è ancora addormentato, va bene. Hai detto non fare nome, infatti non ne ho fatto. Ciao. Adesso ti metto un punto di domanda. Hai fatto una telefonata a una persona tu qualche giorno fa. Oddio. Allora. Dino, com'è? Lo sai che ho preso quella che mi hai detto tu? Hai fatto bene, non te ne pentirai. Ho preso Grazioli F10V, quella che mi hai detto tu, che fa rima. L'ho presa, ce l'ho messa. L'ho trovata a Porto Torres. L'ho trovata a Porto Torres, neanche a Palla Porto. è buona quella, ma poi ho sentito dire, però mi ha detto che ha la stessa qualità di quell'altra. Allora, va bene, dai, Gianni, riprendi il mic, tu che il capo branco, sono entrato così, in fretta in furia. Ti volevo chiamare, sì, stamattina. Vabbè, dai, già, siamo qua. Ti volevo chiamare via capo per chiederti una cosa. Allora, aspetta se c'è un batteria, perché non sa che ero fuori oggi da Buduni e tra video, fotografie e balle varie mi sta segnando poca batteria. Ma fra 10 minuti ero tornato in carica. No, dai, anche domani magari, che non è una cosa urgentissima, ma anche domani ti chiamo e chiedo, dai. Ok. No problem, manda un messaggio, un sms adesso, non c'è problema. Ok, vai Gianni, tiragliela. Ehi, ciao Tino, mi hai sentito, dai. Allora, a Buduni ieri, in Girella. In Girella, ha giocato mio figlio e quindi ho dovuto portarlo a... Così, abbiamo visto un po' di puzzi, anche una volta che eravamo lì, ne abbiamo approfittato e poi sono entrato anche presto, poi mi ha avvolto il divano e niente, sono riduci da una battaglia persa. Ma non hanno vinto? Sì, 5-1 hanno vinto. No, mi ha picchiato il divano a me. Ah, è scritto la giusta, anche a me, dico la verità, mi stavo a guardare il televisore, ma siccome stanotte ho dormito zero, non ho dormito nulla, quindi io ho acquistato un po' dopo pranzo, avevo guardato il televisore e mi sono dormito. È così, la pennichella pomeridiana ci vuole, soprattutto dopo ho mangiato, ti viene quella sonorenza che non guasta. Va bene, vai Tonino. E la sonorenza quando c'è per la giornata non conviene fare la sonorenza. Oggi è una giornata brutta e non so, anch'io mi ho fatto una bella pirichella. Che giornata bella e avrei fatto molta cosa qua, invece non le posso fare nulla. Ogni tanto perché ho consolato a Eva. E purtroppo ne abbiamo fino a mercoledì e giovedì ne abbiamo, per carità. Vabbè, se ci vuole l'acqua comunque, ben venga. Ok, avanti, Gabi. Aspettate che c'ho la bella ferocità in garage che sta abbaiando. La cuccia. No, dice che domani è buono e poi riprende questo tempaccio. A me mato sì da mercoledì, mi sembra giovedì, non mi ricordo bene. Tanto capita 5 giorni di pioggia da sabato. Tu che dici già? Io dico che la natura deve fare ciò che deve fare, l'interessante è che non faccia danno. Guarda, io ho trovato una giornata, ma non bella, no, beffatte, bella, Buduni è proprio bella. Poi si è alzata un po' il maestrino, ma diciamo ora delle 12-13, si respirava, stava bene. Ma ti, a Buduni ieri? Sì. È vicino alla mia figlia posata. Hanno giocato lì, in quel campo lì. Quindi è giornata bella allora, dai, hai trovato lì. Splendida. Anzi, pensavo che la trovavo brutta, invece, infatti ho lasciato il mio cane qua. Io solitamente quando vado ai posti il cane lo porto sempre. Solo che, mantenuto, se piove, vuol stare lì, magari buttato in macchina, col cane, no, vabbè. Invece mi sono pentito poi, perché poi sono andato anche dalla spiaggia lì dove c'è la Pineta Grande, c'è una spiaggia, una sorta di spiaggia, un po' di roccia di spiaggia, abbiamo mangiato al sacco e poi ci siamo rimessi in cammino. Beh, almeno ha giocato bene tuo figlio, dai, per tempo, meglio così, dai. Ok, dai, io mi ritiro, e buon ordine, sono entrato proprio perché ci sentivamo a Gianni e anche a Gabino, e sono entrato poco fa, infatti, ma adesso mi devo fare qualche cosa qua, poi iniziato il giornale e me lo voglio guardare. Va bene, buon proseguo, dai, ci sentiamo alle prossimine. Ciao Gianni, ciao Tino e ciao Gabino, state bene, alle prossimine, ciao. Aspetta, io ti voglio fare proprio un'info, non è che da te o da qualche, o nelle tue zone, hanno bisogno di qualche cane da guardia, così sono dei cuccioli da dare. No, non ho sentito niente, proprio nulla. Vabbè, se senti qualche cosa, ho tre maschi e una femminuccia, cioè, sono 2 mesi, quasi e mezzo che hanno, pastore tedesco incrociato con Rottweiler. Se senti qualcuno mi fa piacere darli, li sto regalando. Eh certo, se siete qualche persona seria sì, certo, perché io amo anche, ce n'ho anch'io due piccolini. Ok, ti già c'ho il numero del telefono tuo, non c'è problema, se siete qualche dono do la voce, adesso domani, e vediamo un po'. Ok, di nuovo, cuore tango, ciao ciao. Ah vabbè, ciao ciao, riprendi già. Ciao Tony, ciao, ci sentiamo, buona serata. Buon proseguimento, eh. Avanti Joker. Ciao Tony, ciao Tony, passatela bene, buona ottanta, se sarà bravo. Dio, ce l'ho anche io, lo sai, un fattore tedesco incrociato con Rottweiler. Davvero? Ah, ma quello che avevo sentito, cioè, avevo visto un post tempo fa però, che te l'avevo lasciato dentro il tuo recinto. Sì, ma l'avevamo buttato dentro in campagna. È un campione, è un campione. Io c'ho un fattore fornese e questo qua è un campione. Ti mando la foto su WhatsApp, fa paura. Fa paura, è un cane fantastico. A lui per il momento, però questo qua è intelligentissimo, è buono di minuta, è un fatto scatenato, meno male me l'hanno lasciato, meno male che me l'hanno lasciato, che non hanno dato la persona sbagliata. Lo so, ma sono sia i miei, vabbè, forse già hai visto le fotografie tu, sono belli entrambi, sia il padre che la madre, ma se vedi i cuccioli te ne muovi, solo che io sinceramente mi diventerà un problema se continuano a crescere tanto, perché poi se non so a chi darli è un casotto, devo chiedere aiuto ad altre persone, perché è impegnativo, capito? Tenerli tutti quanti no, ma va bene, viene impegnativo e spendioso anche. Sì, infatti, è impegnativo e dispendioso, perché io lo vedo, adesso ci sono tutti e due qua, sono tutti e due della giovane, no? Però anche per il mangiare, dice, dopo il mangio uno mangiano due, non è così, perché tutti qua si mangiano due chili di pasta, mi sento col pane, mischiato con quello che c'è, a radice. Cioè, mi sento anche preparare, fare, a me piace, lo faccio volentieri perché a me gli animali piacciono, però se deve essere più di due è un problema. Lui è la sua perda. Va bene, cosa con la radio? Con la radio che mi hai detto? Va benissimo, va più che bene. Scusami, ti che c'aveva un rumore sotto, cosa mi hai detto? Ho detto, quella radio che stai utilizzando è quella che mi hai detto? Sì, sì, sì, è quella che ti ho detto. Adesso ti faccio un passaggio così, guarda il segnale com'è. Adesso è tranquilla, sono con l'RF a zero. Sì, quasi 9.15, dai, con picchi quasi a 9.18. Guarda adesso a vedere com'è. Adesso 100. Adesso 100. Adesso sì, 9.25 è pieno. Non hai picchi positivi, però è pieno pieno, eh. Quindi è molto, è tanto. Sì, va bene, va bene. Adesso sto facendo con 10 watt, è a zero, con 10 watt, l'ho aumentato un pochino, guarda, adesso lo metto, adesso sono liscio, adesso guarda, 40 watt, più o meno, 40 watt adesso. Guarda, da 40, tutti quanti gli hai dati, allora sempre il solito segnale, va bene, va bene. Sì, sì, sempre il solito segnale, adesso sono di nuovo a zero, adesso sono di nuovo a zero. Vabbè, guardate che non cambia la radio, a me pure del segnale non è interessante, guardate che non cambia la radio. No, poi faccio riprendere a Gianni. No, la radio per me splendida, strepitosa, è bella, amplificata, forte, presente, di tutto e di più. Quando aumenti la radio non cambia assolutamente, non distorce, non ha nessun tipo di rumore sotto, quindi per me è un 10. Vai Gianni. Eia, Gavi, adesso ho attaccato il Ruiz, come mi ascolti? Molto forte. Molto forte rispetto a prima. Questo qua è Ruiz, questo qui è, diciamo, una delle radio americane degli anni 70, va molto bene, dai, questa l'ho presa da un collezionista che ce l'aveva in vetrina, mai usata, nuova, non c'è un graffio. Ce l'aveva in vetrina, poi è diventato una diamantone, ci ha venduto tutte le stazioni base che aveva, io ne ho preso due, poi l'altra l'ho venduta, però questa qua me l'ho tenuta. No, caspita, io ho usato sempre questa, è bella, la radio è bella, la radio è molto bella. Sono tornato ragazzi e mi stavate cercando, no, manco per le palle. Sì, abbiamo visto che tu eri impegnato oggi. Oh, scusate, non so se mi avete chiamato o meno. Mi avvio, con questo non mi ascolti. Meglio prima, Tino, meglio prima. Aspetta un attimo. Sta scaldando un pochino, vedi un pochino se ha migliorato la volazione, vabbè l'altro non sono sul pianeta, questo è un baracchino per il cavolo. 9.30 P. Lo so, l'altra non ci arriva quella, però la radio com'è, ha migliorato ora? 9.30 P, però la radio era migliorata. Sì, vabbè, ma dico, va in saturazione oppure no? È normale, com'è? Ora si ce l'ha abbassata un pochino, vediamo, tieni, oh. Un po'. Ecco qua, dovrebbe essere accordato ora. Se un po' in saturazione con la radio, forse il microfono. Sì, già può essere. Già può essere perché l'ho appena acceso, vabbè, poi anche il microfono è stato toccato sicuramente. Non io volevo di sistemare. Eugenio, riprendi. Sì, sono qua. Ciao Tino, buonasera. Ebbene Eugenio, come va? Una cosa da te, sto saturando Eugenio. Tu sei un po' più lontano, Infatti io forse la radio tende leggermente a strappare, leggermente, però io ti ascolto bene. Addirittura, però hanno toccato qualcosa qua, aspetta. Vediamo un attimino. Gianni, scusami un attimino se vedi un po' se è cambiato ora. Come prima, per me io ti ripeto, ti ascolto bene, non trovo differenza. Fa comprimento perché si sente che sta spingendo, però io ti ascolto bene. Cavolo, ne ha un po' sopra la spalla. Deve scaldare ancora, per acceso, vabbè. Lo spegniamo, passo con l'altro. Si vede che sta spingendo, cazzo, qua sei 9 più 10. Spingi. Quell'altro ne aveva un kilowatt. Cos'era un kilowatt? Andare, ma sicuramente è perché è freddo. No, acceso giusto così. Per vedere l'incremento e come arrivate da lì. Segnale era 9.30 picchi positivi. Sì. Ti volevo che proprio uno di quelli se ce l'avevi. Qualcosa di piccolo però, 100 watt, non di più, però un 737, no, un 747, non mi ricordo, forse un 747, non so che sia, quello che ho da parte. Che lo sto usando io quello lì adesso, abbinato con questa radio, adesso è attaccato, lo sto usando io adesso quello lì. Sì, però proprio i più grandi ce li ho impegnati sia qua che nel camper, quindi non ho a disposizione. No, roba a valvole mi serve, roba grossa a valvole da mandare, che ci vuole una fatta. Sì. No, di quello non ne ho. Va bene, riprendi Gianni. Quelli ti fanno salire la bolletta dell'aereo, mica non ti fidare. O il gruppo. Allora va bene. Vabbè, anche dice vuole che vuole pagare, vabbè, comunque, c'è sempre meglio che pagare l'aereo. Hai fatto bene, ti ha messo il gruppo, così almeno. Ma anche per tutta la casa c'è il gruppo. No, sto scherzando, non è un gruppo. E cosa vuoi che assorbi? Va tratta un'ora alla sera, una volta alla settimana, cosa deve assorbire? Va. Ciao. quello, non è quello che assorbe, no. Ad assorbire assorbe la pompa di calore, assorbe la piastra, assorbe l'asciugacapelli, assorbe altra roba. Gabi, guarda, ho fatto una foto, non simile, penso che ce l'abbia un amico, dovrei chiamarlo però. Ok, aspetta che la guardo, riprendi già. Ehi, avanti Eugenio, hai finito di fare questa scritta? Se vuole me la guardo, prendo il telefono e me la guardo. La guarda, ah, no, sono qua, ci sto lavorando, ma no, perché ne sto facendo due, una l'ho quasi finita, l'altra la sto iniziando. Eugenio, dimmi. Adesso sono con l'altro, quanto è di differenza? Beh, sia Santiago 8, l'altro era 9-10. Che brutto è. Ma lo Santiago 8 sono. Dice si aumenta un attimino, guarda un attimino se ha aumentato qualcosa. A 9 si è salito. A 9, aspetta. Mi sa che non è altro, guarda un po'. C'è sempre a 9. Sempre a 9, però come parli scendi a 8, come mai? Ma è negativo. No, aspetta, guarda. Te lo lascio così perché non mi interessa, tanto è 40 watt va più che bene. No, poco fa sei salito a 9, è importante non salire a, poi come parli scendi a 8. Sì, devo fatto un pochino di carica, ma va bene così, dai. Allora. Adesso ho aumentato forse un pochino. Sì, un po' è aumentato, ma lascia andare, già si sento la grande. Sì. Aspetta, ora è positivo però, vero? Sì, va in positivo, quasi a 9 in positivo, diciamo, se a 8 e poi il modulo è a salire quasi a 9. Tino 9,20, un picchi positivo a 9,25. Va bene, sì, questo è subito più, anche un pochino più avanzato, non di tanto, prima era il 4,40, questo è il 4,50, ma già va bene. Bello quello lì, Etti, bello quello lì, che l'hanno andato. E quello è un chilowatt? Ma chi si compra il mio apparato fa un affarone, non ha mai trasmesso oltre 10 watt. Io l'ho puntato lì a 10 watt, boh, sempre fermo lì, non ho mai neanche provato aumentare il watt. Non è un problema nostro, di me, poi ognuno prende le cose, anzi prende con le pinze qualsiasi tipo di cosa che ti dicono. Io l'ho avuto per anni, quello tuo, diciamo che gli davo 20 watt, poi man mano saliva, lo passavo a 20-25 watt, non di più, mai al di sotto dei 20. Poi ognuno ha la roba sua e fa quello che vuole, ripeto. È sconsigliato dargli pochi watt, però. Vabbè, 10 watt non sono pochi. Comunque quando lo accendo schiaccio la portante sale a 3, a 4, poi come scalda sale a 10. No, io gli davo 10 caldo, e poi man mano saliva, cioè caldo come vuol dire, perché tra che c'avevo era 10, poi se saliva lo abbassavo, ma io non meno di 20 watt, sempre, quello che avevi tu, o quello che hai tu. E niente, io vi posso chiedere perché era in lavorazione, non so se l'hanno terminato, non so se l'hanno messo a posto, non so niente. L'ho avuto anche io tempi passati alla croce e funzionava bene, però poi non so che fine ha fatto. Posso fare una telefonata, magari domani se ce l'ha ancora, se gli hanno ritornato, se l'hanno aggiustato, ti farò sapere se lo sta vendendo, non so niente, quindi la sto buttando usi, ecco. Via. E quello che ti avevo fatto io ho fatto l'anno, quel bias. Ma che, l'ho lasciato lì a casa di un amico, un radioamatore, con la speranza di farlo, invece poi l'hanno abbandonato, lì ancora fermo, tra impegni e belle varie non ho fatto niente, quello era bello stesso, quello vuol dire ricordare andava bene. Allora, magari giusto. fatto andava bene. Quello era bello, quello ce l'avevo in macchina io. Vai Gianni. E un attimo che se non ha cosa sul cellulare, riprendo subito. No, io guarda, ho messo questo affare oggi e a quanto pare va bene. Va bene, lascia fare così. Adesso che antenna stai utilizzando? Quella lì, quella che hai preso? Sì, la Grazioli. L'ho trovata a Porto Torres da un amico che l'ha comprata, l'ha usata 6 mesi e l'ha smontata. L'ho presa, me l'ha lasciata diciamo presto giusto, l'ho montata ma è perfetta, guarda, molto, un'antenna bella, molto performante.